L'immigrazione ai tempi del Covid c'è e si vede, ma non se ne parla. E poi Zoom e la Cina. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Here's another tool in the hands of Beijing. Zoom. Even expelled Chinese activists use this video app. The bodies of about 20 migrants from sub-Saharan Africa were recovered from waters off Tunisia. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, una nuova puntata, l'ultima della settimana, di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono, come sempre, Antonio Italia, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Laura Faggini, quest'oggi in assistenza, e in regia, Roberta Frisani. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, ma anche i social, la pagina Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Per porre domande e commentare che cosa? Beh, due le pagine di Nessun Luogo Lontano di quest'oggi. Parleremo di immigrazione, degli sbarchi che avvengono, delle partenze che continuano ad avvenire, dei naufragi, anche delle tragedie in mare di fronte alla Libia, ma anche di fronte alla Tunisia. Però complice il Covid-19, questo dossier un po' evaporato dai riflettori dei grandi media. E poi Zoom e la Cina, la piattaforma utilizzatissima anche da molti di noi durante questo periodo di chiusura totale, costretti a lavorare a casa, Zoom si sta trasformando in un formidabile strumento di propaganda di Pechino. Questi i due temi, 349-238-6666, ma come ogni giorno andiamo a sfogliare i nostri dossier. I dossier internazionali che campeggiano qui sulla scrivania in redazione Nessun Luogo Lontano sono fatti e notizie che arrivano anche da luoghi apparentemente lontani, magari approfondimenti del passato di Nessun Luogo Lontano che sono meritevoli di aggiornamento, oppure spunti per trasformarli in nuove puntate di Nessun Luogo Lontano. Di un tema abbiamo a lungo parlato ed è la situazione economico, politico, sociale del Libano. Si sta aggiungendo alla già disastrosa situazione sociale e politica quella economica, perché la lira libanese continua a perdere ulteriormente valore rispetto al dollaro statunitense, 25% in meno in soli due giorni. Il cambio non ufficiale, pensate, col dollaro ha sfiorato le 5.000 lire. Sostanzialmente il Libano, lo sapete, importante paese nel vicinissimo Oriente, è un po' ago della bilancia o termometro, se preferite, dell'intera zona medio orientale. È in default finanziario dallo scorso marzo, con una crisi politica e con manifestazioni che sono durate per mesi e settimane. Negli ultimi giorni l'ulteriore deprezzamento della lira ha portato in piazza altre migliaia di persone, soprattutto animate da che cosa? Da frustrazione, quindi non sono mancati violenti scontri con le forze dell'ordine, ma anche vandalismi e saccheggi, soprattutto ai danni delle banche. È stata data a fuoco persino anche un'ala della banca centrale libanese proprio a Beirut. Secondo la Croce Rossa libanese almeno 41 persone sono rimaste ferite nella sola Tripoli, e questa è una città molto importante del nord del Libano. Il primo ministro Hassan Diab ha annullato tutte le riunioni per tenere una sessione del gabinetto di emergenza da questa mattina fino al pomeriggio per cercare di fronteggiare quelle che sono delle sfide incredibili per il paese. Mai da 30 anni si era vista una crisi così profonda, così sistemica e allo stesso tempo così complessa. E poi negli Stati Uniti, perché fa discutere la notizia che arriva dalla Casa Bianca. Donald Trump, proprio nelle ore di ieri, ha autorizzato sanzioni contro i funzionari e i giudici della Corte Penale Internazionale che sono coinvolti in un'indagine riguardo a eventuali crimini di guerra commessi dall'esercito degli Stati Uniti in Afghanistan tra il 2003 e il 2004. Abbiamo spesso raccontato di come a volte le cosiddette bombe intelligenti, per usare forse un'irriverente espressione, abbiano fatto pagare uno scotto incredibile ai civili afghani, e quindi la Corte Penale Internazionale ha giustamente cercato di iniziare un lungo procedimento per vederci chiaro. I funzionari dell'amministrazione di Trump hanno affermato che il Tribunale dell'AIA minaccia di violare la sovranità nazionale degli Stati Uniti e ha accusato la Russia di manipolarla per servire i fini di Mosca. Si è pronunciato anche il segretario di Stato Mike Pompeo, ha detto: non staremo a guardare mentre il nostro popolo è minacciato da un tribunale illegale. Naturalmente si è fatta sentire anche la Corte Penale dell'AIA, questi attacchi, hanno detto, costituiscono un'escalation, un tentativo inaccettabile di interferire con lo Stato di diritto e i procedimenti giudiziari. Ma come funzionano queste sanzioni e questi provvedimenti da parte dell'amministrazione di Trump? Sostanzialmente il congelamento dei beni statunitensi di coloro che aiutano la Corte Penale a indagare o perseguire cittadini americani senza il consenso di Washington, oltre, evidentemente lo immaginerete, a restrizioni di viaggio negli Stati Uniti estendibili anche ai familiari dei funzionari coinvolti, levata di scudi da parte di tanti osservatori e analisti, nonché organizzazioni come Human Rights Watch, che hanno detto che è un disprezzo vero e proprio per lo Stato di diritto globale quest'atto e rappresenta un palese tentativo di ostruzione delle indagini. 349-238-6666 per i vostri messaggi e i vostri sms. Ne arriva uno che mi chiede: Libano, Libia, forse per aver sentito la parola, il nome della città, Tripoli. Tripoli è sia la capitale della Libia che una città molto importante del nord del Libano, da ciò forse la confusione che ho ingenerato, ma eravamo in Libano per parlare della svalutazione della lira libanese e di questa crisi sistemica di cui vi davo conto. Infine, Corea del Nord, perché a 2 anni dal summit di Singapore le relazioni tra Nord Corea e Stati Uniti tornano sostanzialmente al punto di partenza. Questo era il titolo della National Public Radio statunitense, che ha sintetizzato lo stato dell'arte delle relazioni tra i due paesi. Kim Jong-un e Donald Trump, lo ricorderete, si erano incontrati a Singapore, era il 12 giugno del 2018, avevano firmato un accordo molto vago in cui si impegnavano entrambi a migliorare le relazioni dei due paesi, in particolare con un vaghissimo disimpegno progressivo sulla denuclearizzazione della penisola coreana. Peraltro molti funzionari dello staff di Trump all'epoca avevano stigmatizzato la fretta con la quale Donald Trump aveva organizzato quell'incontro. Molti insieme alla Casa Bianca dicevano: signor Presidente, questo incontro è un po' prematuro, bisogna preparare le cose per bene. Adesso sostanzialmente, sempre secondo la Corea del Nord, la tesi è: quell'incontro fu una formidabile occasione, una passerella mediatica, ma lo stato dell'arte è esattamente quello di prima dell'incontro di Singapore. E infine in Libia, un'inchiesta dell'Independent, prestigioso quotidiano britannico, che cita anche un rapporto delle Nazioni Unite, ha rivelato che mercenari e uomini d'affari hanno truffato il generale Khalifa Haftar. A questo punto voi direte: mercenari russi, perché è conclamata la presenza di vari uomini della Wagner e non solo, anche di altre società di sicurezza russe. No, la parte sfiziosa, se volete, intrigante della notizia è proprio questa: sono mercenari occidentali. Secondo il quotidiano inglese, 20 mercenari stranieri, tra cui 5 britannici, 12 sudafricani e 2 australiani, sarebbero stati pagati più di $120,000 ciascuno per creare un vero e proprio team d'assalto per mettere ancora più in crisi Tripoli, cosa che poi evidentemente non è avvenuta. I mercenari hanno anche condotto una serie, hanno sostanzialmente fatto da broker, da intermediari, una serie di vendite di materiale militare e armamenti per almeno $30 milioni, chiedendone però 80 milioni in cambio. Quando Haftar ha scoperto il tentativo di truffa, ha dato l'ordine di catturarli e di arrestarli, e questi sarebbero fuggiti con piccoli gommoni verso l'isola di Malta. Insomma, ancora una volta il teatro libico si tinge anche di giallo e di mistero. Questi i nostri dossier internazionali, stanno già arrivando i vostri commenti, tra pochissimo ve ne darò conto. Adesso però proviamo a fare una cosa che abbiamo fatto tanto nelle ultime settimane: proviamo ad accendere Zoom, ma con quali conseguenze? Twitter is banned in China, but the platform still sees a lot of pro-Beijing posts. An analysis by the New York Times suggests the Chinese regime has launched a propaganda campaign on the platform. Video conferencing giant Zoom shut down the account of one human rights activist group after they held an online event commemorating China's Tiananmen Square crackdown. Zoom, dicevamo, ma anche Twitter, ma soprattutto Zoom, in periodo di cosiddetto lockdown, di chiusura, in cui si lavora a casa, sono una piattaforma e un social network che sono parte della nostra vita quotidiana, lo sappiamo perfettamente. Noi di Nessun Luogo è Lontano utilizziamo parecchio Twitter. Chissà quanti di voi hanno utilizzato Zoom per incontri, per lavoro in questi ultimi mesi. Ma Zoom e Twitter sono anche diventati, e lo avete sentito dai titoli, un formidabile campo di battaglia e nel caso di Zoom un formidabile strumento nelle mani di Pechino anche per convogliare e indirizzare messaggi prettamente politici. La storia parte il 31 maggio scorso, quando Zhou Fenzuo, uno dei leader delle proteste di Tiananmen, che vive da moltissimi anni ormai negli Stati Uniti, aveva lanciato una serie di commemorazioni online per ricordare il 31esimo anniversario di quella strage. Zuo e altri superstiti si sarebbero trovati proprio su Zoom, su questa piattaforma, per ricordare i tragici eventi di quella piazza con alcuni parenti delle vittime. Ma su invito del governo cinese la piattaforma Zoom ha bloccato l'evento. Gli account di tutti i partecipanti sono stati sospesi giusto in tempo per sostanzialmente mandare a monte quella veglia che, ricordiamolo, è vietatissima, è un tabù in Cina, se ne è visto una pallida, un pallido riflesso in Hong Kong, ma è chiaro che la diaspora cinese negli Stati Uniti invece tenta di rinverdire quel ricordo. Sentite la voce di Zhu. Abbiamo cercato di contattare Zoom immediatamente tramite mail e telefono. Non abbiamo mai ricevuto risposta. Ci siamo quindi rivolti ai media e a quel punto molti giornalisti hanno chiamato Zoom. E qual è stata la risposta di Zoom, della piattaforma, dei suoi vertici, dell'amministratore delegato? Sentite. La loro spiegazione è inaccettabile. Anche se la Cina ha le sue leggi, il nostro account è statunitense e non doveva essere chiuso. Sì, perché Zoom sostanzialmente dice che tutti gli utenti devono attenersi alle leggi dei paesi in cui l'applicazione è stata scaricata e utilizzata, quindi sostanzialmente la Cina. E quindi anche se tu sei un cittadino cinese, dissidente, che se n'è andato dal paese ma la utilizza negli Stati Uniti, devi soggiacere alle leggi di Pechino. Le stesse tensioni, in maniera diversa, si ripercuotono anche su Twitter, l'account che alcuni di noi utilizzano. Oggi il social network ha sospeso decine di migliaia di account sostenendo che fossero legate a un'operazione di disinformazione del governo cinese volta a influenzare gli utenti su temi come, indovinate un po', diffusione del coronavirus e proteste di Hong Kong. Il tutto evidentemente per volgere almeno una parte dell'opinione pubblica a favore di Pechino. La domanda, chiaramente la immaginate, è come gli stati possono influenzare la diffusione di opinioni sulla rete e quanto è lecito che questo potere degli stati vada anche su aziende private. Certo, nel caso di Zoom, evidentemente, parlare di impresa privata è un eufemismo. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Simone Pieranni, caporedattore esteri del Manifesto, esperto di Cina, già nostro ospite perché ha recentemente scritto un libro che si chiama Red Mirror, il futuro si scrive in Cina, edito dalla Terza, che vi consiglio caldamente di leggere perché apre scenari apparentemente distopici e inquietanti, ma scopriamo invece che il futuro è già qui pronto ad accoglierci a braccia aperte. La stessa cosa che faccio con te, Simone. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a te, grazie dell'accoglienza e a tutti gli ascoltatori. Allora, a dispetto della calda accoglienza, benché in epoca ancora di Covid, c'è un po' di gelo invece che è calato su questa piattaforma Zoom, che ci mette di fronte a un dilemma molto molto importante. E qual è il potere della Cina e l'impatto della Cina sulle applicazioni e più in generale sulla rete, visto che parliamo anche di social network? Ma questa vicenda è abbastanza periodica, nel senso che adesso Zoom, ovviamente con la questione dell'epidemia che ci ha, come ricordavi tu, tenuti tutti un po' a distanza e quindi è stata ultra utilizzata, è un episodio che era già capitato con la Cina. Proprio nel libro Red Mirror io racconto ad esempio di Yahoo, che consegnò al governo cinese su esplicita richiesta le mail di alcuni dissidenti che poi vennero arrestati e torturati e addirittura fecero causa poi e vinsero contro Yahoo. Ma la stessa cosa fu all'origine dell'uscita di Google dalla Cina. Google per molto tempo in Cina rispettava quelle che erano le richieste cinesi, quindi il motore di ricerca non funzionava come da noi in Occidente, era filtrato con le parole censurate, finché Google non ha più accettato queste dettami praticamente del governo cinese ed è stato spostato a Hong Kong. Tra l'altro si sta oggi, insomma, su suggerimento proprio della Cina, che quindi, diciamo, gestì con un paese due sistemi questa vicenda. Certo. Quindi, come dire, la longa manus praticamente cinese è molto chiara e non sembra mettere proprio discussioni. Lo ha fatto anche con la recente legge sulla sicurezza, sulla cyber security nazionale, che obbliga ad esempio tutte le aziende che operano in Cina a tenere i dati in Cina, non possono portarli fuori dal paese. Ugualmente avviene con questi software o queste applicazioni. Il dilemma è sempre lo stesso, cioè queste aziende sono disposte a rinunciare al business per poter operare in Cina o no, perché ad esempio Google di fatto scelse di rinunciare al mercato cinese, così sì, come hanno fatto tanti altri e tante altre aziende che non hanno accettato meccanismi di censura. Altri naturalmente, soprattutto Zoom, che ha tutta una serie di, come dire, collegamenti con la Cina, invece decide di sottostare alle decisioni anche sgradevoli probabilmente che gli vengono date dalla Cina per rimanere in un mercato che comunque in questo momento è uno dei più importanti al mondo. Ricordiamo che 1.400.000.000 di persone, di cui 900 milioni navigano su internet. Certo, e anche a dispetto della recessione che è alle porte, della crisi economica dovuta al Covid-19, comunque stiamo parlando di un mercato gigantesco e comunque, volente o nolente, parte della nostra vita è sicuramente in rete. C'è però uno scenario, Simone Pieranni, che in qualche modo tu hai anche esplorato nel tuo libro, che è il futuro delle bolle di internet. Si potrebbe viaggiare verso un futuro nella quale ogni grande macropotenza mondiale avrà il suo internet, la sua rete, le sue applicazioni. In parte la Cina sta già viaggiando in questa direzione da tempo. Questo potrebbe essere un rischio, no? Avere tante isole che non si parlano fra di loro, alla faccia della globalizzazione, mi verrebbe da dire. Sì, assolutamente. Questa è, secondo me, la più grande storia che dovremmo raccontare per quanto riguarda internet, cioè tutto il capitolo legato ai big data, di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, ma si sta sempre più discutendo del cosiddetto sovranismo digitale, no? Prendendo a prestito un termine che viene utilizzato soprattutto per la politica, cioè un luogo molteplice e, come dire, multilivello e globale com'è internet, praticamente si sta provando a rinchiuderlo all'interno di confini, come se fosse un territorio, come se la sovranità, certo, potesse esercitarsi su appunto un territorio come quello nazionale, ad esempio, sì, cinese. Sì. Lo fa la Cina e lo fa addirittura con una barriera, con un muro, il cosiddetto Great Firewall, no? Sì. La montagna di fuoco che chiude all'esterno praticamente. L'internet in Cina è in realtà una intranet, nel senso che non è un internet come quelle che noi conosciamo, sì, è la intranet che è una sorta di preistoria in realtà del web. Vi ricordate le intranet aziendali, quelle che non potete uscire dalla rete aziendale, a quelle lo fanno ancora adesso. Ugualmente alcuni paesi stanno seguendo questa linea, sono i paesi ovviamente che hanno un approccio più autoritario alla politica e che appunto temono in maniera molto forte che influenze esterne possano, come dire, portare a un cedimento del proprio potere, certo, sulla popolazione, principalmente la Russia e la Turchia, che non a caso studiano proprio dai cinesi come chiudere il più possibile internet. Ma attenzione, perché insomma i movimenti sovranisti sono molteplici e vari nel mondo, e anche Trump, tutto sommato, come ha dimostrato anche ultimamente, vorrebbe pure lui, tutto sommato, dei social network che non solo rispettino le leggi degli Stati Uniti, ma anche probabilmente le sue personali. Quindi è una tendenza che sarà sempre più forte nel mondo pur globalizzato, soprattutto con questo ritorno sempre più, no, al proprio ombelico, alla propria sovranità, e sarà il grosso tema che dovremo affrontare in passato. Cioè, è possibile limitare internet? In realtà alcuni paesi già lo fanno e, come, sì, al solito, come dicevamo l'altra volta, il problema è questo. Cioè, il fatto che alcuni paesi lo facciano e riescano tutto sommato a farlo funzionare bene senza movimenti popolari o rivolte sociali potrebbe ingolosire anche dei governi formalmente democratici. Uno scenario del prossimo futuro in parte già abbozzato in alcune realtà, soprattutto quelle con derive autoritarie. La voce e l'analisi di Simone Pieranni, lo ricordo, è caporedattore esteri del Manifesto, esperto di Cina. Il suo ultimo libro, quasi fresco di stampa, Red Mirror, il futuro, si scrive in Cina, edito dalla Terza. E ti lascio, Simone, con un complimento che arriva da un ascoltatore, Diego, che ha detto ha divorato il libro in 2 giorni, e poi commenta: la Cina è a capo della locomotiva tecnologica e bisogna vedere se anche il suo modello di capitalismo autoritario prevarrà in Occidente. Ci lasciamo, direi, con questa domanda. Grazie mille, Simone Pieranni, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, Simone. Grazie a voi, buona giornata anche a voi. Dalla voce di Simone Pieranni a quella degli ascoltatori al 349-238-6666 c'è qualcuno che torna sul tema statunitense. Non c'è nessuna novità, e fa riferimento a quella presa di posizione piuttosto arrogante da parte di Donald Trump, sanzioni e una stretta verso chi? Pensate, i giudici della Corte Penale Internazionale dell'AIA, colpevoli secondo l'amministrazione statunitense, anche Mike Pompeo ha usato parole molto grosse, di indagare su presunti crimini di guerra degli Stati Uniti in Afghanistan 2003 e 2004. Lo ricordiamo sempre, la verità processuale è una cosa, quella giornalistica è un'altra, ma vi sono decine e decine di reportage che testimoniano come in alcuni casi, in parecchi casi anzi, civili afghani abbiano perso la vita a seguito di operazioni militari o di bombardamenti, mentre gli Stati Uniti cercavano di corroborare le fragili forze di sicurezza afghane contro Al-Qaeda, contro ISIS e anche contro i talebani. Dicevo Enrico che scrive: da sempre gli Stati Uniti giudicano gli altri in base ai loro interessi, ma nessuno pensi di giudicare loro, e noi italiani lo sappiamo bene, cermis docet, così Enrico. 349-238-6666, vi anticipo la prossima pagina di Nessun Luogo Lontano, che riprenderemo subito dopo l'informazione economico-finanziaria e la borsa. La notizia di cronaca è questa: nei giorni scorsi almeno 39 persone sono morte in mare davanti alla città costiera di Sfax. Siamo in Tunisia. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha ricostruito questo viaggio. La partenza sarebbe venuta appunto dal porto della cittadina tunisina, 53 persone a bordo, diretti verso l'Italia. Il naufragio è avvenuto tra il 4 e il 5 giugno. Autorità allertate solo il 9 giugno da un pescatore che ha visto i corpi galleggiare in mare. I corpi erano soprattutto di donne e bambini. Cosa sta succedendo? Beh, molto semplicemente, l'immigrazione non si è fermata, c'è e si vede, in alcuni casi in maniera anche molto macabra, ma non se ne parla più così spesso. Cercheremo di colmare questa lacuna, la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. La seconda pagina di Nessun Luogo Lontano va a toccare il dossier immigrazione, benché scomparso totalmente dai radar durante la pandemia, durante il lockdown soprattutto, e la crisi da Covid-19, non prima di aver risposto a un paio di ascoltatori. Il primo che chiede se l'AIA abbia mai processato o aperto una pratica contro i crimini di guerra dei talebani. L'AIA adesso sta proprio indagando su che crimini. 2003-2004 Afghanistan, non solo contro gli americani, cioè sugli americani, sugli soldati statunitensi, ma anche talebani e forze di sicurezza afghana, così per completezza di informazione. E poi c'è un ascoltatore che scrive: non capisco questo problema dei morti civili, era una guerra, mica una scampagnata. Durante la seconda guerra mondiale in Italia morivano i civili, ma nessuno si è mai lamentato con gli americani per questo. Beh, la risposta potrebbe essere questa. E torniamo a parlare di immigrazione. Buongiorno e benvenuta Carlotta Sami, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e per il Sud Europa. Carlotta Sami, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie a voi, piacere grazie, di sentirvi. Grazie a lei Sami. Angela Caponnetto, inviata Rai News 24, autrice del libro Attraverso i tuoi occhi, cronache dalle immigrazioni, edito da PM. Angela, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Grazie a voi dell'invito e buongiorno. Allora, io direi, partiamo Carlotta Sami, cerchiamo di fare una fotografia di quella che è la situazione soprattutto libica. Davo notizia di questa tragedia del mare di fronte alla Tunisia, ma abbiamo anche notizie del fatto che una percentuale residuale di trafficanti, in qualche modo libici, collabori con quelli tunisini per spostare alcuni migranti per viaggiare dalla Libia fino in Tunisia e poi in Italia. Ci dà un'idea di come si sta muovendo il traffico dei migranti, ma soprattutto qual è la situazione e quanti migranti sono bloccati in Libia in questo momento? Allora, per noi è difficile sapere come si stanno muovendo i trafficanti, se non dire che da quello che noi verifichiamo non soltanto in Libia e in Tunisia, ma lungo molte rotte che cominciano ben prima di questi due paesi, quello del traffico di esseri umani è un affare transnazionale, quindi è uno degli affari illegali più redditizi al mondo in assoluto. Quindi nel continente africano, ma anche in tanti altri continenti. La situazione dei migranti e dei rifugiati, dei richiedenti asilo in Libia, ma anche in Tunisia, è estremamente difficile in questo momento, perché partiamo dalla Tunisia, paese dal quale sono partiti moltissime persone e dal quale stanno partendo sicuramente più persone in questi ultimi mesi. C'è stato un incremento notevole delle partenze. Tra di loro ci sono sì tunisini, ma ci sono tantissime persone anche che provengono dall'Africa subsahariana, che molto probabilmente in molti casi sono persone che si trovavano in Tunisia per lavorare. La Tunisia è un paese africano verso cui i migranti da altri paesi africani arrivano per motivi di lavoro spesso, cercando di migliorare la propria vita, e lavorano spesso anche in condizioni molto difficili, perché spesso lavorano come domestiche, soprattutto le donne, e il rischio di abuso e di sfruttamento è altissimo. Ma la loro condizione è sicuramente peggiorata ora, negli ultimi mesi, anche a causa della pandemia, che ha fatto sì che moltissime persone che magari sopravvivevano con lavori saltuari abbiano visto svanire anche questa piccola e fragile possibilità di sopravvivenza. Questo viene ulteriormente esacerbato in un paese come la Libia, dove le violenze sono sicuramente maggiori, i rischi per la vita sono enormi. Ribadiamo per l'ennesima volta che la Libia non può in nessun modo essere considerato un paese sicuro, né un porto sicuro, dove c'è un conflitto violento in atto, dove c'è un sistema, un vero e proprio sistema rodato di sfruttamento, abuso e violenza sistemica contro i migranti e contro i rifugiati. I migranti che si trovano in Libia, i rifugiati, sono centinaia di migliaia, perché la Libia è sempre stato un paese verso cui, anch'esso da molti altri paesi dell'Africa, le persone viaggiavano per andare a trovare un lavoro, così come anche tantissimi migranti asiatici. In questo momento molti non stanno lavorando, ma questo non significa che molti di loro siano sulle coste pronti a partire. Ecco, Carlotta Sami ha fatto bene a sottolineare questo aspetto. Da un lato, che molti paesi del Nord Africa non sono solo luoghi di partenza, ma luoghi di destinazione. La Libia storicamente lo è stato, il Marocco ultimamente lo sta diventando parecchio. Chiaro che la situazione Covid-19 e la crisi economica adesso derivata cambierà le carte in tavola. E poi ha fatto bene Carlotta Sami anche a mettere dei dubbi su quelli che sono i potenziali migranti pronti a partire. Perché, e tu, vado immediatamente da Angela Caponnetto, lo ricordo, inviata di Renews 24, e ha appena scritto un libro pubblicato da PM, Attraverso i tuoi occhi, cronache dell'immigrazione, perché Angela da tempo segue le immigrazioni nel Mediterraneo. Dicevo, c'è questa litania oramai un po' stucchevole, francamente, da parte opinione personalissima. Ogni estate periodicamente arriva l'allarme, questa volta arriva anche dai servizi italiani, 20.000 pronti a partire. Qualche anno fa qualche quotidiano italiano titolava addirittura in 1 milione pronti a invaderci. Angela Caponnetto, intanto, quanto è verosimile questa ennesima ipotesi di invasione, tra virgolette evidentemente, e dal tuo punto di vista come sta cambiando il fenomeno migratorio, visto che lo stai osservando da tanti, tanti anni? Sì, hai detto bene, ogni estate arriva l'allarme invasione, cambiano un po' i numeri, a volte gonfiati, 1 milione, insomma non sono mai partiti 1 milione, ne è arrivati 1 milione di migranti in un'estate soltanto, ma nel corso di tantissimi anni. E figuriamoci se adesso possiamo fare una previsione su quanti ne partiranno e quanti ne arriveranno nei prossimi mesi. 20.000 tra l'altro è una cifra che possiamo dire è un numero anche abbastanza irrisorio, se consideriamo che 20.000 persone si potessero veramente distribuire in tutta Europa o effettuare i rimpatri per quelli che invece andrebbero rimpatriati, allora a quel punto non mi sembra una cifra per cui ci dobbiamo assolutamente spaventare, ma dobbiamo semplicemente affrontare e controllare. E per quanto riguarda il fenomeno come è cambiato, alla fine proprio scrivendo questo libro mi sono resa conto che ho iniziato nel 2002, ho finito nel 2020 il libro, quindi i numeri si ruotano intorno, ma la cifra più o meno, le cifre sono sempre le stesse, e forse è cambiato in parte, ma non è cambiato moltissimo, perché da tanti anni noi continuiamo a non riuscire a fermare quello che è, più che un pull factor, chiamerei un push factor. Sono persone che vengono costrette, che sono costrette a partire perché non hanno molte alternative, e noi fino ad ora queste alternative non gliele abbiamo date, né prima di partire e neanche quando poi arrivano in Europa o anche nel resto del mondo, perché sappiamo appunto che sono milioni, Sami lo sa perché l'UNHCR ha dato i numeri, le cifre delle persone che viaggiano, dei popoli che si muovono nel corso di questi anni, sono veramente milioni e milioni. Ecco, forse dovremmo fare qualcosa adesso, proprio in periodo di pandemia, ci siamo ritrovati in un momento molto difficile anche per noi, dovremmo forse fare qualcosa in più a livello di istituzioni e di governi internazionali. Sì, La voce è di Angela Caponnetto, è l'inviata di Renews 24, ha appena scritto il libro Attraverso i tuoi occhi, cronache dalle migrazioni, edito da PM. Vi do conto sia ad Angela Caponnetto e a Carlotta Sami di un po' di reazioni da parte degli ascoltatori. Salvini non vedeva l'ora di poter ricavalcare il problema migranti, così Sam. Qualcun altro, sarebbe il caso di spiegare ai migranti in attesa in Libia il principio di Archimede, immagino faccia riferimento ai vasi comunicanti, così giusto per evitare altre stragi. È un messaggio piuttosto irriverente, Marco da Ferrara. Qualcuno che ci dice: ennesima trasmissione per spiegare quello che sanno ormai tutti, mai uno che proponga soluzioni concrete, tutti a raccontare il risaputo. Ci dispiace, gentile ascoltatore, se già sapeva di quell'ennesima strage in Tunisia o se sapeva i numeri che l'UNHCR, che Angela Caponnetto maneggiano da parecchi anni. Non è il nostro compito di cronisti e di Alto Commissariato delle Nazioni Unite, la portavoce Carlotta Sami, fornire delle soluzioni concrete. Quella è la politica ed è un compito molto molto delicato, e lo è soprattutto sul tema immigrazione. Direi, facciamo una cosa: qui a Nessun Luogo Lontano amiamo dare i numeri, partirei da quelli e poi andiamo sulle strade. Avere dati precisi su quanti siano i migranti e i rifugiati che attualmente si trovano in Libia è estremamente complesso. Secondo un recente rapporto delle Nazioni Unite, il loro numero si attesta intorno a 650.000, metà dei quali provenienti da Egitto, Niger e Chad. È importante però precisare che questo numero non coincide con quello delle persone intenzionate ad attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Molti di questi cittadini stranieri, infatti, pur tra molte difficoltà, vivono e lavorano in Libia. Secondo le stime delle principali agenzie umanitarie presenti in Libia, i migranti trattenuti nei centri di detenzione ufficiale gestiti dal Dipartimento per il contrasto all'immigrazione illegale del governo di Tripoli sarebbero tra i 1.500 e i 2.000. Impossibile invece conoscere il numero di uomini, donne e bambini detenuti in centri illegali in mano alle milizie e ai trafficanti di esseri umani. Sempre più spesso chi prova a partire viene intercettato in mare dagli uomini della cosiddetta Guardia Costiera Libica. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, dall'inizio dell'anno quasi 4.000 persone sono state intercettate o soccorse in mare e riportate in Libia. Di almeno 600 persone si sarebbero perse le tracce dopo lo sbarco, trasportati probabilmente in centri di detenzione non ufficiali, ma sempre sotto il controllo del governo di Tripoli. Secondo le fonti del Ministero dell'Interno, dal 1 gennaio 2020 ad oggi sono 5.472 i migranti sbarcati sulle coste italiane contro i 2.144 dello stesso periodo del 2019. Bangladesh, Tunisia e Sudan sono i primi tre paesi d'origine. Secondo l'OIM, i cui dati sono aggiornati a fine maggio, la Libia resta il principale paese di partenza, ma una quota significativa dei migranti, circa 1.500 persone, si è imbarcata in Tunisia. Questi i numeri. Un ascoltatore: trasmissione sempre più inascoltabile, tutto anti-americanismo, propaganda pro-clandestini a favore del regime medievale, sanguinario, comunista, cinese. Se non la pensate così, state con noi, le strade, poi torno. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. La seconda pagina di Nessun Luogo Lontano con Carlotta Sami, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati Sud Europa. Angela Caponnetto, inviata a Rai News 24, autrice del libro Attraverso i tuoi occhi, cronache dalle migrazioni, edito da APM. Riparto dalla prima, da Carlotta Sami, perché a un certo punto avete dovuto interrompere quei voli di rimpatrio che dalla Libia tentavano di far tornare indietro e far recuperare anche vita ad alcuni migranti. Ci aggiorna sulla situazione Carlotta Sami? Sì, intanto un punto, perché noi abbiamo attivato un programma che noi chiamiamo programma di evacuazione di emergenza dalla Libia diversi anni fa, per cercare di salvare rifugiati da quel paese, quindi quando sono persone che non possono tornare nei propri paesi, sì. Proprio perché la situazione in Libia è al di là di ogni immaginazione in quanto ad abusi. è proprio di un mese fa circa, il rapporto della Corte Penale dell'Aia, in cui si parla di sparizioni forzate, torture, violenze sessuali, crimini commessi indiscriminatamente su donne, uomini e bambini. Credo che questo non possa essere ammesso in nessuna parte del mondo. Siamo riusciti ad evacuare in questa maniera diverse migliaia di persone, purtroppo non tante quante vorremmo. Dovete pensare che il reinsediamento, i corridoi umanitari sono una forma di diciamo una via di salvezza strutturata, legale e sicura che si può proporre per rifugiati particolarmente vulnerabili. Bene, noi nel mondo abbiamo nell'ultimo anno identificato nel 2019 un bisogno di questo tipo per più di 1.200.000 persone. E le quote che ci hanno offerto gli stati in tutto il mondo sono state 55.000. Quindi voi capite bene che occupandoci noi di milioni di rifugiati, decine di milioni di rifugiati in tutto il mondo, dobbiamo a quel punto fare un ordine terribile di vulnerabilità e non lasciare nessuno indietro. Certo. Avremmo voluto continuare a farlo dalla Libia, ci appoggiamo spesso, facciamo prima dei voli verso il Niger dove abbiamo creato delle strutture di accoglienza, dove fra l'altro siamo stati anche in missione con Angela Caponnetto, che ha ascoltato le testimonianze, che conosce benissimo di queste terribili di queste persone, stanno in Niger in attesa di andare verso alcuni paesi europei o il Canada. Sì. Purtroppo con la pandemia abbiamo dovuto sospendere questi voli, proprio uno degli ultimi voli che era in programma dal Niger verso l'Italia, lo stesso giorno in cui avrebbe dovuto decollare all'improvviso è stato fermato. Certo. E noi ci auguriamo che questo assolutamente possa ripartire al più presto, perché il bisogno continua ad esserci, il bisogno è enorme, e il bisogno è enorme in Libia, ma è anche molto grande il bisogno nei paesi prima della Libia, perché bisogna, proprio come diceva Angela, offrire qualche cosa che dia uno spiraglio di speranza laddove le persone invece si trovano nella disperazione più assoluta. E questa disperazione che le fa poi sperare che, arrivando in Libia, possano prima o poi trovarsi su una barca che, con tutti i rischi enormi che ci sono, però possa essere l'ultimo lumicino di speranza, certo, per salvarsi la vita. Certo, direi quasi l'ultima spiaggia, se non fosse un'espressione piuttosto irriverente, ma me ne assumo la responsabilità. Un ascoltatore, in parte Carlotta Sami, sta rispondendo al 349-238-6666, si stupisce: Bangladesh, Tunisia e Sudan sono i primi tre paesi d'origine, non mi risulta che vi siano guerre, scrive un ascoltatore. È vero, non vi sono guerre in Tunisia, ma la situazione da un lato economica in Bangladesh è assolutamente disastrosa, tanto che molti migranti preferiscono lasciare quel paese. Sudan l'abbiamo tanto raccontato in queste mesi di Nessun Luogo è Lontano, la crisi, la caduta di Omar Bashir, insomma ci sono solidi motivi anche per scappare dal Sudan, ma non sta a me assolutamente dirlo. Torno da Angela Caponnetto proprio per riportarti, Angela, un po' il polso di alcuni ascoltatori che al 349-238-6666 scrivono cose del tipo: ma non possiamo accoglierli tutti, o qualcuno mi invita a fare un centro d'accoglienza qua in Viale Monterosa 91, ma dubito che Sole 24 Ore sia d'accordo con questa proposta. Né non sono io, perché, gentile ascoltatore, questa è la funzione dello Stato, non è il singolo privato, quindi questa litania portati tu a casa tua, francamente, mi sembra abbastanza stucchevole. Angela Caponnetto, come cambia la percezione del pubblico rispetto alla questione immigrazione? Appena pronuncia la parola immigrazione scatta immediatamente una tensione fortissima, perché? Beh, scatta una tensione fortissima perché c'è la paura dell'altro, la paura del diverso, la paura di chi non si conosce, e soprattutto di persone che vengono da paesi molto poveri e che possono venire nel nostro paese a cercare fortuna, e dove in realtà abbiamo un paese che chiaramente in questo momento si trova più in difficoltà del solito. Certo. E quindi è facile a quel punto prendersela con chi è più debole. Io non voglio una persona che viene a rubarmi il lavoro, questa è la narrazione che viene fatta. E poi purtroppo c'è anche una narrazione un po' sbagliata da parte di alcune frange politiche che un po' cavalcano la scia, cavalcano la tigre. Questo non va bene. Da una parte e dall'altra, dico io, non bisogna né essere buonisti né anche essere eccessivamente contro appunto l'altro. Io mi soffermerei invece appunto su quello che noi abbiamo, su questi numeri. In realtà queste persone non sono numeri, forse la cosa più importante è cominciare a capire appunto chi sono queste persone e perché si muovono. E la teoria dei vasi comunicanti di Archimede, come un radioascoltatore sottolineava in un suo intervento, loro sanno perfettamente che non troveranno una strada spianata una volta arrivati qua. Quasi tutti sono dotati di telefoni cellulari che sono la loro unica fonte di contatto con il resto del mondo, dal quale non si separerebbero mai, anche se sono dei catorci che invece poi vengono descritti anche lì da una narrazione un po' falsata come dei telefonini di ultima generazione. Certo. Ecco, loro sono informatissimi, sanno perfettamente a che cosa vanno incontro, soprattutto una volta superata la prima fase, una volta che i trafficanti li fanno arrivare in Libia o in Tunisia o insomma in Nord Africa, e sanno che sarà difficilissimo sia il viaggio sia quello che troveranno qui da noi, ma non hanno alternative. E il fatto che non ci siano guerre nei loro paesi non significa che non affrontino quotidianamente una guerra che è quella della fame, ma della fame vera. Io sono stata in paesi, in villaggi, sono stata in Niger insieme appunto a Carlotta Sani, sì, ma anche in Senegal, in Gambia, dove non hanno luce, non hanno acqua, non hanno niente, non hanno, mangiano veramente quel poco tutti insieme seduti per terra in un'unica pentola, sì, o in un unico piatto. E questo è una guerra quotidiana per la sopravvivenza. Non rimane che tentare la fortuna, e la fortuna la tentano i giovani, quelli più forti, perché questo viaggio non lo può affrontare una persona malata. Certo, è molto spesso no, chiedo scusa Angela, ti interrompo, perché anche questo è un po' un falso mito da sfatare. È un giovane uomo forte che può affrontare il viaggio, che si fa carico di questo investimento anche finanziario, spesso di alcune famiglie che si mettono insieme. Dovremmo avere almeno altri 10 puntate in Nessun Luogo per esplorare tutti gli aspetti che vengono sollecitati anche da tanti ascoltatori. Per il momento però mi devo fermare qua, non prima di aver ringraziato Angela Caponi Netto, Renews 24, ricordo il suo libro Attraverso i tuoi occhi, cronache dalle migrazioni PM, e Carlotta Sami, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e per il Sud Europa. A entrambe buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. All'unisono proprio anche, devo dire un saluto notevole. D'altra parte venerdì volevamo chiudere in bellezza, manca un minuto, allora vi do conto di un po' di messaggi. Qualcuno dice non hanno niente ma i telefoni sì, ma ricordavamo come fosse, come sia uno strumento necessario per muoversi. Molti puntano il dito su quelli che sono i paesi di partenza, le responsabilità del governo, e molto spesso da questi microfoni abbiamo anche cercato di tradurre questa giusta tesi. I governi molto spesso di alcuni paesi africani sono super corrotti, pensano solamente alle loro tasche. C'è tutta una grande e folta letteratura anche africana, attenzione, di economisti africani, penso a Dambisa Moyo in giù, che dice basta agli aiuti di Stato ai paesi africani perché se li intascano e non cade niente poi nelle tasche della popolazione. C'è qualcun altro che torna sul problema, diciamo, generale della cultura, della religione e del costume. Arrivano gli immigrati di credenza musulmana e soprattutto introducono questi loro costumi e religioni che non ci sono assolutamente confacenti e sono estranee. Ci sono tanti altri messaggi, però io vi rispondo con una parola sola. Alla quale naturalmente obbedisco, perché arriva da Roberta Frisani, mi impone di chiudere, non prima di aver ringraziato tutti voi che siete stati all'ascolto, la squadra in Nessun Luogo, e l'appuntamento è domani ore 10 col meglio di, e poi lunedì alle 16 vi aspetto. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.